9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 21 di luglio. Oggi la giornata per l'Europa e per i mercati mondiali, e attualmente avete tutta l'attenzione al Consiglio straordinario europeo, dove si spera che questa volta i politici europei capiscano che la soluzione che deve essere partorita deve essere una soluzione considerata dai mercati tale da avere risorse finanziarie adeguate a fronteggiare non solo il problema greco ma degli altri eurodeboli, secondo da avere autonomia operativa, terzo da fronteggiare anche una incipiente crisi delle banche. Se ne parla poco, ma vi posso garantire che le banche italiane europee hanno un problema di finanziamento a breve, perché l'interbancario si è di nuovo esaurito come nei peggiori momenti del pre-Lehman Brothers, perché ci sfida di nuovo pochissimo gli uni degli altri, al di là del fatto che poi si è superato di tutti gli stress test. Da questo dipende, da questo Consiglio europeo dipende il fatto che la danza macabra delle spread dei titoli del debito pubblico non ricominci, altrimenti inevitabilmente, perché la scommessa che è stata fatta intendere al mercato, che giustamente la fa propria, è quella che fino al 2013 un meccanismo di questo tipo non ci sarebbe stato, e quindi gioco forza, le scommesse vanno poi a estendersi sui diversi paesi eurodeboli che hanno diversi problemi, ma si arriva fino all'Italia, che a quel punto, essendo il primo emittente di titoli di debito pubblico nell'euroarea e il quarto debito pubblico mondiale, è quello che offre le maggiori chance per naturalmente guadagnare giocando al ribasso. Quindi la giornata di oggi, attenti a che cosa i telegiornali vi diranno, che cosa uscirà dal summit europeo, perché di lì si capisce se nei prossimi giorni inevitabilmente, questo è il mio giudizio, ricomincia il ballo anche sull'Italia, e quindi dai poco meno di 300 punti di spread, eravamo 220 venerdì della settimana scorsa, ricominciamo a puntare verso i 400, e a quel punto si entra in una fase in cui, appena varata la nuova manovra, purtroppo bisognerà pensare a che cosa fare di nuovo, se regge il quadro politico o non regge il quadro politico. E in questa contingenza, ieri i voti alla Camera e al Senato sull'autorizzazione a procedere, alla Camera per l'onorevole Papa, PDL, e al Senato per il senatore tedesco, hanno avuto l'esito che sapete, che avete sentito dai TG ieri sera, dai giornali radio, avete sentito commentare prima la trasmissione di Milan, se eravate in ascolto dall'onorevole Craxi e l'onorevole Donadi. Il giudizio è chiaro, una parte della Lega ha detto, si è mantenuta coerente all'indirizzo di votare per l'autorizzazione all'arresto, alla custodia cautelare dell'onorevole Papa, e quindi a disattendere l'invito di Berlusconi su un tema, la custodia cautelare dei parlamentari, che è un po' un tema cardine e con un precedente assoluto nella storia repubblicana, visto che non si era mai concessa se non 4 volte, ma sempre per reati di sangue, mentre nelle stesse ore poco prima un senatore del PD vedeva l'autorizzazione alla custodia cautelare invece negata dal voto del Senato. I titoli dei giornali di oggi sono tutti titoli che nei diversi punti di vista, quindi non solo i giornali esplicitamente da sempre critici verso il governo, fanno capire che siamo a un punto prossimo al non ritorno della oramai mancata coesione del centrodestra. Ho citato i titoli prima quando ero ospite di Milan, li ripeto: La Stampa, il fondo di Luigi La Spina, dice la fine di un'illusione, il messaggero, quindi un giornale classicamente diciamo equilibrato, titolo del fondo: svolta senza ritorno. Il Corriere della Sera, il fondo di Pierluigi Battista: la febbre è alta, però tutti descrivono un'atmosfera di cui i prodromi erano stati dati di ieri dalla paradossale vicenda in mattinata, sempre a Montecitorio, dell'autoribaltamento della maggioranza sul tema decreto rifiuti, con il ministro Prestigiacomo sul banco del governo evidentemente non informato, sconfessato degli stessi voti che seguivano contrastanti alle sue indicazioni di voto, e che pure ieri poi ha tentato di minimizzare, però l'atmosfera era quella. Ne parleremo oggi di questo, ma non solo di questo, di cui dobbiamo partire perché è obbligatorio visto il clima politico, ma non solo di questo, parleremo anche dei temi di cui si occupa per il dicastero, di cui è responsabile il dicastero dei beni culturali, con il ministro Galan, che ha accettato di essere il nostro ospite politico di giornata. E quando dico parleremo dei temi del suo dicastero, dico che parleremo naturalmente del problema della tutela del patrimonio, di punti delicati come vicende di Pompei, che recentemente sono tornati all'attenzione dell'opinione pubblica italiana, anche perché abbiamo appreso che ci sarebbe forse un'offerta fino a 200 milioni di euro addirittura da parte di imprenditori francesi per riqualificare l'area e aggiungersi al sangue, casse pubbliche, perché in questa settimana Galan più volte in audizioni e di interviste si è occupato di questo come di altri temi del suo dicastero. Ce ne occuperemo perché nella manovra, tra le decisioni di semplificazione e di razionalizzazione, si prende una decisione su un nome importante della cinematografia italiana come Cinecittà, e ci occuperemo anche di altre prese di posizione, perché l'onorevole Galan, il ministro Galan, che è un ministro che parla chiaro, lo faceva quando era alla guida del Veneto, ma ha continuato a farlo anche quando è entrato nel governo, è lo stesso ministro che dopo la botta delle amministrative rilasciò dichiarazioni che fecero molto discutere, ma che davano un po' il segno di quello che stava preparandosi la maggioranza nel governo. E fu lui a dire: io riconosco a Tremonti tutti i suoi meriti, contemporaneamente c'è un problema politico, perché il ministro Tremonti è un socialista e da questo punto di vista è un po' difficile evitare di non vedere i problemi politici che questo pone al PDL. È spietato, la sua politica ci ha offerto la garanzia in Europa, ma i suoi tagli lineari equivalgono a non scegliere. Queste furono le dichiarazioni, era fine aprile, e poi abbiamo visto come quelle dichiarazioni rilevassero un problema politico, che è poi quello che ha indotto Tremonti a arrivare a un Consiglio dei Ministri in cui si è dovuto aprire alle osservazioni dei suoi colleghi, a una manovra il cui esito finale forse contribuisce ad approfondire la crisi del governo nei confronti del suo stesso elettorato, perché i giornali picchiano duro, e questa decisione di mettere nella manovra a garanzia dei saldi, cioè se non ci sono altri tagli, 20 miliardi di tagli lineari di deduzioni e detrazioni, viene usata come una clava, giustamente, per fare capire agli italiani che a questo punto entrerebbero in campo tagli lineari, deduzioni e detrazioni per i loro figli, per le imprese e così via. Sarà una potentissima arma, questo è il mio giudizio, nelle mani dell'opposizione se si andesse a votare prima del 2013, perché si dimentica sempre di dire che quei 20 miliardi di tagli lineari, deduzioni e detrazioni fiscali entrerebbero in campo solo se entro il 2013 non ci fossero i tagli adeguati, ma naturalmente diventerà un argomento di campagna elettorale per dire: votate per noi, basta che votiate per noi senza che noi vi diciamo che cos'altro vogliamo fare, perché quei 20 miliardi di tagli lineari, deduzioni e detrazioni non ci sono, e quindi siamo alla polemica sempre di tagli lineari. Ho fatto tutta questa introduzione e me ne scuso. Innanzitutto io ringrazio il ministro Galan per essere per noi qui con noi, e quindi lo saluto. Buongiorno ministro. Buongiorno anche chi ci ascolta. Allora, io devo partire per forza dal giudizio che vuole darci di quello che è avvenuto ieri alla Camera. Che impressione ha? Una tristezza infinita, non tanto per Papa, per l'onorevole, ho una tristezza infinita perché vedo tornare i tempi delle carcerazioni preventive. E quindi non è una questione di casta, non di casta, di Camera, di onorevole, di uomini di destra o uomini di sinistra, deputati o meno, è una questione di cittadini. Io devo dirlo, a me si è riaffacciato il volto e la tristezza della vicenda di Enzo Tortora. E visto che da presidente della Regione Veneto, insomma, ci ha avuto per anni molto strettamente a che fare, ha avuto discussioni a volte, per come dire, franche, che è il termine con cui, l'aggettivo con cui in politica si dice che a volte si discute molto animatamente fino a dissentire totalmente, ma non a dirlo in pubblico, che pensa della svolta leghista? A me dispiace che sulla pelle di un uomo, a prescindere che sia deputato o meno, ma sulla pelle di un uomo, della sua famiglia, dei suoi due figli, si sia giocato una partita interna della Lega. Questo è per davvero un episodio tristissimo. Non si gioca sulla pelle degli uomini. E guardi, la cosa che un po' mi rincuora è che il mio partito non lo ha fatto. C'erano i tempi per esercitare una vendetta con Tedesco al Senato, c'erano i tempi, si poteva fare, non lo hanno fatto perché vige un principio, quello che in carcere uno ci deve andare dopo un processo. Ma secondo lei il voto al Senato, che ha salvato invece il senatore tedesco del PD, non è lo stesso fenomeno che è avvenuto alla Camera, cioè un problema interno della maggioranza, un segnale preciso a Berlusconi quello che è avvenuto? Lei lo legge diversamente il voto al Senato? No, io lo leggo diversamente, perché al Senato è stato molto, molto diverso. Al Senato noi abbiamo, PDL ha votato per il non arresto come per Papa, come per Tedesco, come abbiamo fatto per Tedesco, come avremmo fatto per qualsiasi cittadino in base a un principio. La Lega ha cambiato la sua posizione, ma il regolamento interno alla Lega si è avuto alla Camera, non al Senato. Crede che sommando questi voti, sommando la tensione che inevitabilmente avverrà, sia pure dopo la sospensione estiva, sul caso milanese, che sarà ancora più delicato, visto che stiamo parlando di uno dei più stretti collaboratori di Tremonti, rispetto ai quali la Lega ha avuto il rapporto che ha avuto, politicamente molto più adesivo a Tremonti di quanto non abbia avuto con Berlusconi e PDL molto spesso, e pensando agli esiti della manovra e al ballo dei mercati, lei pensa che l'onorevole Berlusconi, dicendo arrivo fino al 2013, abbia ragionevoli motivi per continuare a pensarlo, oppure il segnale della Lega è guarda, non ti ci facciamo arrivare? Io credo che abbia ragione Berlusconi, cioè si può arrivare alla fine al 2013, certo di episodi come questo probabilmente ce ne saranno ancora, certo la Lega eserciterà il suo potere, che è quello che si esercita in politica, di far pesare ogni volta il suo voto e ottenere qualche cosa in cambio. Ecco, fino a quando questo sarà tollerabile io credo che il governo andrà avanti, fino a quando questo governo non avrà un'alternativa io credo che si andrà avanti, ma la mia preoccupazione sarebbe quella di proseguire bene. Lei però quando si è trattato di esaminare i risultati delle amministrative, poi l'altra botta del referendum e così via, fu abbastanza franco nel dire noi dobbiamo riconoscere che andando avanti così abbiamo un problema con la nostra gente del centrodestra nel nord. Oltretutto era il primo voto in cui quello che appariva nei due anni precedenti, cioè il fatto che il PDL potesse non più raccogliere in crescita i voti, quel che perdeva il PDL andava alla Lega, alle amministrative non è più successo neanche questo. E sottolineò il fatto che proprio sulla manovra, la politica economica, c'erano delle decisioni da assumere. Il giudizio che dà oggi è che le sue preoccupazioni sono state raccolte o sono invece il segno su cui nel PDL bisognerebbe mettersi a testa bassa a lavorare? No, purtroppo le mie indicazioni, che non sono soltanto mie, sono di tutta quella grande area che si ispira ai principi del liberalismo, non sono state accolte. La manovra non ha nulla di innovativo, di rivoluzionario, è una buona manovra che non mette le mani nelle tasche degli italiani, è una manovra discreta che ci tranquillizza sui mercati internazionali, o almeno fa il meglio che si potesse, ma non c'è nulla di rivoluzionario, nulla di innovativo, nulla di fantasioso, nulla che possa affascinare. E nei momenti difficili sarebbe proprio il caso di inventare qualcosa. Senta, le chiedo ancora una cosa delicata, perché da componente del governo capisco perfettamente che mi dica guardi, su questo non deve chiedere a me, ma chi ha continuato a scrivere sui giornali di una tensione crescente, del tutto irrisolta dopo la manovra tra Berlusconi e Tremonti, ritiene di avere buone ragioni per farlo. Io stesso sono tra quelli che dicono che il problema non è affatto risolto ed è ancora potentissimamente sul tavolo. I conti con questa impostazione rigorista e contemporaneamente che va sposta nel tempo la soluzione dei veri temi su cui il PDL ha preso i voti, cioè le tasse e politiche per la crescita oltre che di rigore, secondo lei in questa legislatura c'è maniera ancora di affrontarli con un cambio deciso? Ma come, dopo che c'è la manovra triennale e le grandi scelte sono delineate, se andate avanti? Bisognava farlo subito in questa manovra, c'è ancora tempo di farlo, ogni giorno è buono per poterlo fare. Io mi dispiace, ma io sono d'accordo con lei, non è affatto risolta la questione di due visioni diametralmente opposte. Non è visione socialista quella di Tremonti, è visione statalista. Ecco, forse correggo me stesso, sì, in questo. Sì, l'ispirazione sì. È quella, però al primo posto lo Stato, quella di Berlusconi, quella almeno che io conosco, quella che ha affascinato tanti italiani, quella che ha ridestato le coscienze nel 94 con la discesa in campo, era tutt'altra, era la vera ispirazione liberale, il cittadino al centro. Ecco che cambia diametralmente la prospettiva. Meno tasse, più libertà, una libertà da conquistare ogni giorno, e invece si è fatto il contrario, si è posto come se il rigore fosse incompatibile con lo sviluppo, come se il rigore dei conti, ecco, la meticolosa attenzione ai conti non potesse consentire la rivoluzione liberale. No, nei tempi di crisi si può fare, si possono fare i movimenti, ci sono alcuni esempi pratici e anche immediatamente realizzabili se lo si volesse fare, e invece si privilegia lo Stato, i conti economici e soltanto quello per giustificare una assenza totale di prospettiva. Ministro Galani, senta, io batto parecchie associazioni di imprenditori, moltissimo quelle del Nord-Est, le assemblee ci sono state recentemente, lo sa benissimo anche lei perché ci mette l'occhio, in assemblee come quelle di Vicenza, Treviso, Padova, ci sono migliaia e migliaia di imprenditori che vanno all'assemblea annuale. L'aria l'ha vista sui giornali, presidenti come Zuccato di Vicenza dicono: noi oramai siamo a un punto in cui la nostra delusione è tale che se bisogna raccogliere referendum contro le cose promosse anche da questo governo, raccogliere firme, siamo pronti a farlo. L'impressione che hanno le imprese e che la stessa poi dal mondo del lavoro è che siccome le tasse aumentano in questa manovra, sono i due terzi, il 60%, non i due terzi ma il 60% di questa manovra, allora loro dicono se è così bisogna dare un segnale, e dicono il problema è che a questo punto abbiamo l'impressione che perché sia credibile il segnale ci vuole una discontinuità netta rispetto a come PDL e maggioranza di centrodestra attualmente si sono caratterizzati. Quando dicono discontinuità netta non pensano probabilmente alla maggioranza di loro ancora all'opposizione, ma pensano che alcuni di voi dovrebbero avere il coraggio di dire così no, noi in nome degli stessi valori che ci hanno portato ad avere i voti e essere eletti diciamo che o così o faremo altre cose anche in questa legislatura. Io glielo giro perché è quello che ho sentito più o meno dovunque, e io sono convinto che lei non mi prende per provocatore nel dirglielo, ma a questi vostri elettori che erano tanti nel nord, che tipo di risposta concreta lei si sente di poter dire forse questo lo possiamo fare? Hanno ragione, io capisco benissimo la loro delusione, si erano alimentate altre attese, e se posso schematizzare, ci sono almeno due cose che io mi sarei aspettato che ci fossero in questa manovra, almeno due, che corrispondono alle promesse della rivoluzione liberale che era così piaciuta agli imprenditori, in particolare a quelli del Nord-Est che io conosco bene. Le posso dire: uno, ridurre lo Stato. Ecco, l'impostazione statalista favorisce lo Stato, io sostengo che sia necessario ridurlo, vendere, ma ha senso che lo Stato possieda tutte queste azioni di Enel, Terna, Eni ancora oggi, ha senso che le province possiedano le società autostradali, ha senso che il Comune di Venezia ancora oggi abbia un'importante partecipazione nella gestione, nella società che gestisce l'aeroporto. Ecco, quante cose si potrebbero fare vendendo tutte le partecipazioni che il pubblico ha, come si davvero si distruggerebbe quel malcostume politico per cui invece di nominare un sindaco nominiamo il presidente di un consiglio d'amministrazione che a sua volta nomina i consiglieri e mantiene una pletora di centinaia di migliaia di politici senza professione. Se faccio un altro esempio, parlando al presidente di regione per molti anni, quando vado al ministero, alla ragione generale del ministro, a dire: ma possibile mai che non mettiate mano, la stima è recente, dell'inizio dell'anno scorso, l'avete fatta apposta, 400 miliardi del totale dell'attivo pubblico, che è di molto superiore al debito pubblico, quindi siamo solventi, ma almeno 400 miliardi stimati recentemente ancora di attivo immobiliare che si può mettere a redere o cedere, mettere a reddito o cedere, quindi non stiamo parlando del Colosseo, non stiamo parlando di beni demaniali incedibili, stiamo parlando di appartamenti, case, palazzi eccetera che ancora oggi sono nelle mani pubbliche per almeno 400 miliardi. Vado al ministro e dico: ma possibile mai che non possiamo mettere in atto in tre anni 2, 3, 4 punti di PIL, ma almeno 2 o 3 di cessione di questo genere? Risposta che mi dicono lì: non fare il provocatore Giannino, non romperci le scatole, sai meglio di noi che l'80% oramai di quei 400 miliardi è nelle mani delle autonomie. E io dico: ma perché non apriamo un tavolo subito con le autonomie, mettendolo in parallelo anche ai decreti del federalismo? Loro mi dicono: ma se già sul decreto del federalismo lo rifiutano i tagli eccetera. Infatti gli dico: in cambio dei tagli voi gli date una compartecipazione alle cessioni, che a quel punto immagino importanti, perché anche le autonomie ci prenderebbero una quota a parte. Secondo lei il mio ragionamento non sta in piedi o starebbe in piedi? Signor, lei fa peggio che il provocatore, fa rivoluzionario liberale, e io l'abbraccerei in questo momento, perché proprio vendere la chiave di volta. Ma è mai possibile che si detenga un patrimonio di questo genere? senza senso, senza significato. Allora, vendere, dimagrire lo Stato, ma eccola, la vede la differenza vera fra chi è di ispirazione liberale e chi è di ispirazione statalista? Il liberale vende, non gli interessa, vende ai cittadini tutto quello che si chiama sussidiarietà, non è che la inventiamo in questo momento. Lo statalista tiene, compra, non vende neppure una caserma dismessa, tiene tutto quello che è assolutamente superfluo, ecco, ma e lì lei ha centrato per davvero l'essenza del problema. Si può, in un momento di crisi com'è quello che oggettivamente stiamo vivendo, essere rivoluzionari, liberali? Ecco, secondo me la mia risposta è sì. Quindi vendiamo domani mattina tutto quello che lo Stato ha, anche se il potere vero, l'immensità del patrimonio è detenuto dai municipi, ed è concentrato in quell'abominio che ormai sono diventate le aziende municipalizzate. Senta, Pompei, facciamo un esempio, perché Pompei recentemente, quella della sera, animato nuove, poi c'è stato uno scambio di articoli, lettere polemiche, la senatrice De Feo. Allora, la questione è, Pompei, è vera questa cosa? Lei risulta come ministro che ci sono i francesi disponibili a metterci fino a 200 milioni di euro come parte privata del sostegno di ciò che lo Stato lì non può fare più di tanto? E poi, che cosa concretamente ci può dire di come si migliora l'offerta di servizi, eccetera, un unico punto di ristoro in una superficie così ampia e così via? So che ha recentemente proprio toccato questo punto. Cosa ci possiamo aspettare? Intanto per Pompei lo Stato italiano ha fatto moltissimo, questo va detto, perché 80 milioni di euro all'anno per la manutenzione e la conservazione, e la possibilità di assumere immediatamente in deroga a qualsiasi divieto di assumere dipendenti a Pompei, 105 milioni per recuperati dai FAS da riprogrammare. Insomma, lo Stato italiano ha fatto tutto quello che doveva fare. Ora, benvenuti i soldi, i contributi degli stranieri, però questa cosa è un po' circondata da un'area di mistero, non si è ben capito. 200 milioni in cosa? In denaro? 200 milioni in opere? 200 milioni non si è capito. Quindi formalmente non c'è nessun passo, nessuna risposta? No, formalmente non c'è proprio niente. Poi c'è un programma serio fatto dal massimo esperto di archeologia in Italia, il professor Carandini, quindi a me risulta che i francesi abbiano detto qualcosa che potrebbe assomigliare, detto dagli italiani: sapete, noi vi rendiamo più bella, mettiamo a posto, che ne so, la Torre Eiffel, però vengono a farla su progetto nostro due aziende italiane. Come minimo si fanno i bandi di gara, io sono abituato a questo, quindi è una situazione un po' confusa, ma a Pompei ci sono tutte le premesse per fare comunque benissimo. È stato proprio ieri che mi sono scandalizzato per quello che è davvero il futuro dei beni culturali, che sta nei servizi aggiuntivi. Ieri, parlando all'assemblea di Civita, a Pompei c'è un punto di ristoro su 60 ettari, qualcosa indescrivibile. Però lei sa che di fronte al tentativo di fare più gare per la messa sul mercato dei servizi aggiuntivi e collaterali ai musei eccetera eccetera, ci sono sempre molte polemiche, perché si dice si vuole cedere ai privati una fonte di utili quando invece dovrebbero essere gestiti centralmente. Ma è un errore, perché se gli utili non arrivano, io preferisco dare in concessione, facendo una gara seria, farmi pagare la concessione e lasciare che siano i privati a gestire il bar, la biglietteria e tutti i servizi aggiuntivi. Insomma, in ogni paese civile avviene così. Lo Stato, abbiamo combattuto per anni lo Stato che produceva panettoni, ecco, adesso produrre lo Stato che fa cappuccini nei musei mi sembrerebbe un po' ridicolo. Senta, dopo tutte le proteste delle ultime due finanziarie, che poi hanno anche contribuito a travolgere Bondi per i tagli che Tremonti aveva fatto ai fondi per lo spettacolo, alla cultura eccetera eccetera, e una specie di piccolo armistizio che c'è stato con il ripristino di alcune dotazioni, per quello che riguarda la manovra triennale, lei come sta messo con il suo dicastero? Bene, devo fare due ragionamenti distinti. La manovra non mi piace, l'ho detto apertamente, l'ho detto anche prima. Per come ministro dei beni culturali è meglio di quello che ci si poteva aspettare, logicamente. non ci sono tagli, c'è per la prima volta da tantissimo tempo un'inversione di tendenza e non solo non si taglia ma si incrementa. C'è una straordinaria opportunità per tutti gli italiani che amano l'arte o dicono di amarla, vedremo, che è quella di destinare il loro 5 per 1000 alla cultura. Perfetto. E quindi una straordinaria sfida, anche un'opportunità, una sfida come sempre, un rischio anche, ma che accetto volentieri. E l'operazione di, diciamo, dismissione, superamento di Cinecittà, l'operazione Cinecittà Luce, da questo punto di vista, che cos'è? Razionalizzazione o è un taglio travestito? Come l'ha preso il mondo del cinema italiano? Perché fino a questo momento sta a guardare per tentare di capire dove andrà. No, l'ha preso benissimo, c'è stata una leggera iniziale così, movimentazione da parte di un sindacato, ma dopo è stata capita perfettamente e difatti quella manovra è nella sua essenza semplice, in parte anche un po' geniale, nessuno rimane per strada e il personale viene inserito nel Ministero dei Beni Culturali come dipendenti del Ministero, oppure quelli che hanno le competenze per Cinecittà restano a Cinecittà, quindi nessuno rimane per casa. Il costo che grava sul FUS è di 22 milioni in meno per anno, Cinecittà prosegue nelle sue attività, nel suo core business e quella manovra era concordata anche con i vertici di Cinecittà, quindi una manovra assolutamente perfetta che restituirà a Cinecittà la sua funzione, che è una funzione importante e anche, devo dire, con apprezzamento ben svolta dall'attuale consiglio d'amministrazione. E io devo dire che, tra l'altro, per chi ci ascolta, io non credo che molti, tranne gli appassionati, gli addetti alla storia, lo sappiano, il caso di Cinecittà Pubblica, che poi è diventata Spacco Amato, è un caso classico di come poi lo Stato si allarghi a fare cose che non doveva, perché Cinecittà da centro di produzione di alta qualificazione eccetera si era messo a gestire sale. Allora voi capite che in questo poi c'è l'errore di un pachidermismo che poi non si regge e che espande le piante organiche e soprattutto diventa poi molto oneroso, perché gestire le sale, per quello ci sono i privati, o le deve gestire lo Stato, scusatemi. Eccoci qua, ero alla ricerca accidentaccio di una copia di un giornale e invece lo spot pubblicitario mi ha fregato. La prima volta che avviene, mi scuso. Ci ha raggiunto, collegato con noi, Francesco Verderami del Corriere della Sera. Gli chiedo il suo giudizio franco e tagliente, come sempre, sulle conseguenze di ciò che è avvenuto ieri per il combinato risposto del voto al Senato e alla Camera sulle autorizzazioni a procedere. Siamo alla svolta nella storia di questa legislatura nel rapporto tra la Lega e Berlusconi, secondo te, oppure no? Tanto buongiorno e grazie della vostra ospitalità. Io penso che ieri si siano svolti due congressi dentro l'aula di Montecitorio. E uno è quello della Lega, e vabbè, e l'altro? L'altro è quello del PDL. L'altro è quello del PDL e il primo è stato vinto da Maroni. E il secondo? Perché il primo è chiaro, dai giornalisti. Il secondo è senza padre, come molto spesso accade quando un grande impero copre vastissime province e poi alla fine si smembra senza che nessuno si voglia intestare il patrimonio. E questo sta avvenendo dentro il partito di Berlusconi. Quindi più che un congresso è uno scenario, diciamo, da declino di un impero, più che un congresso, perché il congresso della Lega si capisce, Maroni per il momento ha messo un colpo a segno, c'è chi lo segue, è evidente. No, il congresso dentro il PDL si capisce in quest'altro senso, ovvero come il tentativo in atto di prendere posizione in vista del tramonto del proprio berlusconiano. Non so, come mettersi, come quando i ciclisti si preparano al... Però domanda, chi nel PDL ieri ha visto di buon occhio nel PDL ciò che avveniva con il voto favorevole alla custodia cautelare di Papa, non dovrebbe comportarsi allo stesso modo quando sarà il collaboratore più stretto di Tremonti, probabilmente dopo la pausa estiva, ad andare in aula con richiesta analoga e quindi a colpire entrambi? Perché fino a qualche settimana fa immaginavamo Berlusconi giù, Tremonti su, una parte forse ragiona così. Adesso, per così dire, questa distinzione non c'è più. questo è un processo di dissoluzione che non guarda in faccia Berlusconi e Tremonti. Il problema vero è che il centrodestra oggi si trova senza più sostituti, in senso di quelli che avevamo, nell'accezione che avevamo in precedenza, nei pensieri che avevamo in precedenza. Se vogliamo guardare in termini di possibili alternative a Berlusconi, sono tutti cavalli azzoppati, tutti tranne uno, che è il neo segretario Alfano. Tremonti è azzoppato dalla vicenda milanese, e Letta a sua volta azzoppato dalla vicenda che riguarda lo stesso caso P4, ma per, non più per ramo milanese, per ramo Bisignani. E quindi Alfano da tutto questo potrebbe, per così dire, ricevere una iniezione di insperata disperazione per fare qualche colpo di autonomia? No. Perché ecco la situazione, perché è arrivata allo stallo e si è paralizzata. No, perché Berlusconi comunque è ancora presente. No, perché Alfano ha un rapporto molto stretto con il Presidente del Consiglio, e il rapporto di lealtà non prevede in questo caso il parricidio politico. Tutto ciò dovrebbe avvenire attraverso un atto di Berlusconi, ma Berlusconi non ha questo in testa. Se ce l'avesse, sarebbe il colpo di spariglio che potrebbe veramente cambiare forse anche il corso delle prossime elezioni. Cioè, tu escludi che esista la possibilità, se ripartono i mercati dopo questo colpo del parlamentare e il prossimo, che poi a quel punto ineludibilmente secondo me si avvicina, che Berlusconi non possa immaginare di dare una disponibilità riservata a dire vabbè, eliminiamo Tremonti, mi elimino anch'io, lascio Alfano la testa di un governo, vediamo se Casini lo volta con qualche innesto esterno, senza di me, senza Tremonti, io rientro in campo per le elezioni. Tu dici Berlusconi non può pensare a questo? C'è un detto che traduco già direttamente dal calabrese, che è la mia lingua, che dice che chi nasce tondo non muore quadrato. Ho capito. Quindi è un po' complicato. Ma ieri è successo anche un'altra cosa, forse la più importante, ed è una mia, naturalmente, un mio convincimento personale, il convincimento di chi da qualche anno, diciamo, segue le vicende del Parlamento. È successo che dentro il Parlamento, per una questione esclusivamente politica, cioè quella di chi voleva difendere o voleva colpire Silvio Berlusconi, il Parlamento stesso si è suicidato. E questo è, l'abbiamo detto, è storicamente senza precedenti. Le quattro transazioni a precedere erano per ipotesi di reati di sangue, e quando si valica questo confine per reati di altro ordine diverso come questo, sono d'accordo anch'io che... E se mi permetti, lo ritengo un'ennesima vergogna, perché ritengo personalmente che per tutte le, diciamo, chiamiamole le malefatte che la politica può aver fatto, può fare, compresa quella per esempio di non sapersi autoriformare attraverso anche i tagli, ai costi, eccetera. E c'è questa viltà di aver, di essersi consegnata alla magistratura, sancendo un principio che non sta né in cielo né in terra, e cioè che c'è un primato di un ordine su quello di un potere. Ecco, io naturalmente ripeto, a chi è a casa stia attento a considerare che noi stiamo parlando di ipotesi di custodia cautelare del parlamentare, non stiamo parlando della libertà del magistrato di svolgere le sue indagini, stiamo parlando della custodia cautelare di un parlamentare in costanza di mandato. Onorevole Galan, Ministro Galan, ha sentito il giudizio Verderami sui due congressi? C'è stato questo congresso al PDL, anche secondo lei questa decomposizione che però poi si dibatte di fronte all'ipotesi che di soluzioni a portata di mano non ce ne sono, come dice con molto pessimismo ma anche molto realismo Verderami? Ci si ritrova, Galan? No, non mi ritrovo in questa parte. Mi ritrovo molto con Verderami per la parte in cui giudica osceno, non ha usato questo termine, ma osceno il giocare su un privato cittadino e sul suo diritto alla libertà, o sul suo diritto o sul suo dovere di andare in carcere, ma dopo un processo. Ecco, qui non si trattava di ostacolare, l'ha detto benissimo lei, non si trattava di ostacolare l'attività dei magistrati, si trattava di stabilire se era giusto mandare in carcere prima di qualsiasi processo un privato cittadino, questo è lo sceno. Non sono d'accordo con Verderami sul doppio congresso, di congresso io ne ho visto uno solo, quello della Lega, perché quello del PDL non era affatto un congresso, è un altro episodio di una grande difficoltà, che è quella probabilmente che si collega a un grande impero che deve ammodernarsi. Io credo che Angelino Alfano sia la migliore scelta che si potesse fare, credo che abbia un compito enormemente difficile di fronte a sé e che debba dare il segno della novità presto. Che gli siamo tutti vicini e che quello più vicino di tutti è Berlusconi, che a mio avviso non deve fare un passo indietro ma deve fare tre avanti. Eccoci in studio, ci ha raggiunto telefonicamente il direttore dell'unità Claudio Sardo. Io vi faccio, è la prima volta che mi ospite, i miei auguri personali per l'incarico del direttore dell'unità. Ci tengo a dire a chi è in ascolto che conosco Claudio Sardo, lo dico sempre, io faccio sempre i caveat contro i miei conflitti di interesse, conosco, stimo da moltissimi anni Claudio Sardo, l'ho conosciuto, l'ho ospitato in famiglia. Voglio dirvi solo questo: qualunque cosa voi pensiate dell'incarico che ricopre come direttore dell'unità, della storia dell'unità, eccetera eccetera, ricordate che sono le persone prima degli incarichi e dei posti. Io su Claudio Sardo metterei, più che su mio fratello, su me stesso, la mano per i valori cristiani, per il tipo di persona, per il tipo di cose che ha ispirato, lo dico io senza che lui mi dica che devo smettere di dirlo, tutta la vita che gli ho visto condurre. No, ti metto in imbarazzo, però sai com'è, nessuno si aspetterebbe che io direi questo del direttore dell'unità, però io, siccome sei tu e ti conosco, come lo direi di qualunque sia la sua convinzione, io mi sento di dirlo. Claudio, oggi hai scritto l'editoriale del tuo giornale che dirigi, Finale di partita, in cui i concetti sono tre. Finale di partita, è chiaro, è segnale politico per la maggioranza e per il governo. Contemporaneamente dici, le manette non sono mai un segno di progresso, però il voto per Papa andava dato, il voto per Tedesco invece è un segno di opacità che allontana poi il PD e l'opposizione da ciò che l'opinione pubblica vuole. Se l'opinione pubblica vuole le manette, domanda, hai sentito Verde Rami, ho sentito le parole, sì, di Galan. Sì, guarda, naturalmente io sono convinto che le manette non sono un simbolo di progresso sociale e non vorrei mai che le forze moderate, le forze progressiste per un solo attimo pensassero che possano, diciamo, sublimare le colpe della politica. Quindi è quanto più lontano da me agitare questa bandiera. Il problema è che noi dobbiamo cogliere, io penso, la ragione, forse la differenza della mia opinione da quella che ho sentito prevalente, è che noi dobbiamo cogliere che siamo in un passaggio di sistema, non siamo di fronte a una crisi di governo, siamo di fronte a una crisi di quella che abbiamo chiamato la Seconda Repubblica. Tu dici si avvia la svolta dopo 17 anni di Berlusconi, insomma. Ecco, insomma, è chiaro, siamo a un passaggio e questo passaggio ci sono molti elementi che oggi hanno un deficit di delegittimazione. Prima si è parlato di due congressi, adesso non so se è un congresso o un convegno, certamente Maroni ieri ha vinto una partita molto importante nella Lega. Secondo me il PDL non è ancora un partito. E questo è il problema, che non riesce a fare il congresso e che sentivo nella discussione, non si riusciva a dare una spiegazione del perché si chiama congresso, e questo è un altro deficit di sistema. Se il PDL fosse un partito, probabilmente al declino di Berlusconi opporrebbe una linea politica o un cambio oppure un affiancamento. Il PDL non è ancora un partito e questo è un elemento della crisi di sistema. Il nostro sistema elettorale non consente una piena legittimazione del mandato parlamentare. Non possiamo negare che il Porcellum ha creato un deficit di legittimazione al Parlamento enorme. Già, diciamo, l'uso, cioè Mortati, già negli anni 70, che è stato uno dei padri costituenti e l'autore della norma sull'immunità parlamentare, diceva che l'immunità parlamentare veniva usata in modo anomalo dal Parlamento. Se a questo noi abbiamo affiancato una progressiva delegittimazione del Parlamento, abbiamo costruito un sistema in cui sembra che il mandato diretto sia al governo e che il Parlamento sia solo una coda del governo, un Parlamento che non può sanzionare i governi perché altrimenti commette lesa maestà. Noi siamo in un passaggio di sistema. Se ieri io sono convinto che non in base a un principio astratto, ma in base a mi auguro che sia l'avvio di una ricomposizione del sistema. Io ho scritto che secondo me il parlamentare deve avere una tutela costituzionale, perché altrimenti rischiamo un deficit democratico, ma oggi il negare l'autorizzazione avrebbe un altro segno prevalente, cioè quello di una non uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sarebbe un atto di protezione di un privilegio, perché la funzione del Parlamento è stata depotenziata dallo stesso sistema che abbiamo costruito. Questo è, secondo me, il passaggio. Lo so, è chiaro che quando siamo in una situazione in cui non si riescono, diciamo, è una come una coperta che non riesce a coprire per intero il letto, però a mio giudizio la risposta opporre ieri alla richiesta dei magistrati un rifiuto sarebbe stato, o è stato, diciamo, nel caso del Senato, visto che, diciamo, i voti sono stati diversi, una scelta sbagliata. È come provare a continuare a combattere non tenendo conto che siamo in un passaggio di sistema. Io mi auguro sinceramente che il centrosinistra si riesca veramente a porre questo tema, perché il rischio invece è che qualcuno pensi che la crisi di Berlusconi può portare a un'alternativa e quindi qualche volta ci possa essere un'eredità Seconda Repubblica, perché Per così dire, un po' come era l'illusione dopo la prima Repubblica che la sinistra visse per una breve stagione prima che poi Berlusconi invertisse la faccenda, dicendo tanto erediremo naturalmente. L'esperienza c'è stata, mi auguro che non si ripeta, cioè che si colga, non si pensi che perché, diciamo, c'è stata la vittoria del 93 delle amministrative, poi c'è la vittoria a portata di mano, si può ereditare per inerzia il sistema. Io penso che il tema ci sia un tema, diciamo, di portata costituente, di grande portata riformatrice sul piano istituzionale e un grande impegno sulla crescita del paese decennale. Noi qui ci giochiamo il fatto dove collochiamo l'Italia, in Serie A, in Serie B o in Serie C. Noi dobbiamo uscire da questa fase con un obiettivo 2020. Senza questo l'opposizione rischia di illudersi. Ministro Galan, se è vero un grano di verità, io non dico che lei ha già detto il congresso del PDL non c'è stato, Alfano può fare molto eccetera, ma da tutto questo e dalla parte iniziale della nostra conversazione, quando abbiamo ricordato la delusione evidente già espressa dalle urne di una parte dell'elettorato nel nord, del centrodestra, di quelli che speravano meno tasse, meno Stato, una risposta liberale centrata sulla persona, sulla famiglia e così via, se sommiamo tutte queste cose, il tasso di rapidità che al PDL, ai ministri come lei, ai parlamentari, è richiesto nel PDL per mettere in campo iniziative capaci di dialogare sia con il proprio popolo, sia di apparire in grado di sopravanzare l'avanzata, i colpi a segno portati dall'opposizione, non è un grado di velocità di iniziative, di autonomia di pensiero politico, anche di libertà espressiva senza ledere la maestà del capo, che fino a questo momento non si è visto? Che cosa ci può far pensare che invece nei prossimi mesi assisteremo a questo nel PDL? Secondo me c'è una consapevolezza che si è fatta strada ormai nel PDL, che con buona pace di chi mi ha preceduto non sarà mai un partito tradizionale, non sarà mai un partito nelle griglie solite, e quindi i nostri avversari, i nostri competitor fanno fatica a capirlo, ma c'è una consapevolezza in questo grandissimo innovativo partito che è il PDL, che è quella che bisogna avere coraggio. Bisogna osare, noi abbiamo cambiato il mondo della politica, perfino il modo di parlare di politica. Però oggi è il coraggio anche di dire a Berlusconi, se tu non fai in qualche misura eccetera, siamo nei guai fino al corpo. Cioè questo coraggio qua c'è? Ma qualcuno ce l'ha, okay. Io ammetto, dopo la deferenza verso il capo è a volte si trasforma in piaggeria, in qualche altro caso è lealtà, io no, sono no, assolutamente certo. Leale perché devo tutto. Però la lealtà a un capo che sta nei guai è dirgli stiamo nei guai e tu sei una parte del problema e non solo la soluzione, e questo ciò che secondo me una parte del popolo centrodestra deluso non ha visto abbastanza. Non ne facciamo naturalmente colpa all'onorevole Galan, che da quando è ministro già ne ha dette tante, ne abbiamo ricordate oggi con lui, grazie alla chiarezza e alla tagliente verbo di Francesco Verderami e di Claudio Sardo, direttore dell'Unità, che ancora saluto, grazie ai miei ospiti di oggi, il ministro Galan, appuntamento con noi a domani, Linea Giornale Radio.